Ladies and gentlemen, start now on air clandestine. Diciamo che va tutto bene, diciamo in parte, si cerca di andare bene. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera, col microfono è Ciccio e alla mia destra c'è Bonaventure del Camerun, Boni Samalekua come come cognome, insomma, le qua, e il nome è Bonaventure Boni, insomma. Ok, grazie Boni. Naturalmente la sala macchine è l'inaspettato questa sera. Sempre io, sempre Pone. Buonasera, buonasera. Ok, abbiamo avanti con la scalation musicale. Abbiamo tantissime notizie e naturalmente poi l'intervista al nostro ospite che questa sera arriva dal Cameron. Vai Peppe, suona. Slashed and torn. Clandestino Cid, come ogni lunedì il ritrovo settimanale alle, questa volta un po' in ritardo, comunque causa problemi tecnici e il maltempo che affligge il sud Italia. Ok, partiamo subito con l'intervista al nostro ospite Boni, della tua terra. Grazie, mi sono già presentato, Boni, sono del Camerun in Africa centrale, cioè siamo proprio al centro dell'Africa, al nord dell'Equator, quindi il Camerun proprio al Golfo di Guinea, il paese più, diciamo tra virgolette, un po' più meglio in Africa centrale, nel senso della storia, se posso dire così, perché in Africa centrale il Camerun ha tutti lo conoscono nel sport, oppure se ce l'ho adesso la mia maglia, perché mi piace, c'è il Camerun nel mio paese, sì. Un'altra domanda o non ho risposta? Se non sbaglio, è iniziata anche la Coppa d'Africa, no? Sì, è iniziata la Coppa d'Africa, purtroppo noi non questi ultimi tempi abbiamo problemi a livello dell'organizzazione, perché il calcio non dipende soltanto dai giocatori che giocano sul campo, però dall'organizzazione del mondo del calcio, se posso dire, cioè il Ministero dello Sport. Per questo il Camerun, con tanti problemi, i nostri giocatori non hanno potuto partecipare, però la Coppa d'Africa è bellissima quest'anno. Perfetto, Boni. Passiamo a un pezzo che hai portato tu, magari ce lo presenti. Sì, allora vi posso presentare una canzone dei giovani camerunesi. Il gruppo si chiama X Malaya, la canzone è Song Me. La canzone è Song Me, sì. E questa l'avevano cantato proprio per un grande giocatore, il più grande giocatore africano, che si chiama Samuel Eto'o. E la canzone significa proteggimi, Song Me. Cioè di fronte alla gelosia dell'umanità, no? Siccome lui sta facendo tante belle cose là in Africa, anche per lui non va... Non è facile cavarsela, così cantanti hanno pensato. Non détruire, on se presse, pas de haine. Je rappe pour la paix. On avance, on construit, et tu le sais. Si tu parles dans notre dos, c'est qu'on est devant toi. On n'a pas le temps, on avance, on construit, et tu le sais. Bacardi, Malaya, les jaloux vont périr. Avanti con la trasmissione. Boni, continuiamo con la nostra intervista. Abbiamo fatto una linea generale sulla geografia, diciamo, del Camerun. Questa volta passiamo un po' sulla politica, la politica del tuo paese, magari un quadro storico e poi approfondiremo. Sì, Camerun comunque politicamente già tra virgolette è un paese povero perché il livello di vita è basso. E cosa posso dire? Una storia lunga, cioè Camerun ha avuto l'indipendenza negli anni 60 e poi c'è stato un primo governo che ha governato, se posso dire così, fino al 1982, dove c'è stato quasi un colpo di Stato, no? Però in modo senza guerra, perché il presidente camerunese, mentre pensava di essere malato, è arrivato in Francia, hanno sostituito e hanno messo un altro, giusto era un modo di toglierlo, cioè lui di dire avete una malattia grave, quindi dovete spostarvi, poi magari lasciate qualcuno che può lavorare aspettando, però mentre che lui era lì è stato così. E quello là che è fino adesso, dal 1982 a fino adesso c'è lo stesso che si chiama Paul Biya. E cos'altro? Il Camerun negli anni dopo l'indipendenza 1960, il Camerun era suddiviso in due gruppi, cioè Camerun anglofono, se posso dire così, e Camerun francofono. Però dopo nel 1962 abbiamo fatto la grande riunificazione del Camerun, quindi è andato dalla Repubblica Federale a una Repubblica normale, se posso dire, per un paese unito. E poi e ogni anno festeggiamo questa riunificazione del paese e a livello politico proprio, non culturale, perché la domanda era a livello politico, no? La politica tra virgolette esiste perché anche noi rispettiamo le norme delle elezioni, tutte queste cose. La sola differenza è che per esempio uno arriva, perché è lo stesso, quando diciamo 1982 fino adesso vuol dire che ha già fatto quasi 31 anni al potere. Vuol dire che ogni volta che si doveva magari, come dire, cioè se uno rispetto a quello che si firma all'assemblea, per esempio se un presidente ha 7 anni rinnovabile una volta, quando il secondo manda finisce e cambia la legge all'assemblea e poi ricomincia lo stesso. E fino a là siamo arrivati a questo punto di avere lo stesso presidente, però da me c'è la libertà. In Camerun c'è la libertà di espressione, c'è la capacità di spostarsi come uno vuole, c'è la pace perché non ho mai comunque conosciuto la guerra. Da me parliamo più di 200 dialetti diversi. Abbiamo un paese molto molto misto, per questo tipo guerra e violenza insomma non è possibile, perché da noi, cioè da me ci sono per esempio i miei zii, che io sono del centro proprio del Camerun, cioè Yaoundé dove è la capitale, però c'è lui e i zii che vivono per esempio al nord o a sud, e ci sono pure delle persone del nord che vivono a sud, siamo molto misti, senza contare gli stranieri. Quindi insomma la vita politica da noi sta crescendo, io ci credo, perché comunque c'è una nuova generazione che sta arrivando, dato che quello il presidente di adesso non so per quanto tempo ci sarà ancora, però secondo me è la fine di una storia, un po' di un regime che non ha tanto fatto bene il loro lavoro, che sta comunque andando verso la fine. Spero che fra 5-6 anni le cose dovrebbero cambiare per bene. Beh, ve lo auguriamo, un augurio lo facciamo anche noi di Clandestino Cheat. Sostanzialmente prima hai voluto fare una netta distinzione tra la storia politica e quella culturale. Se magari adesso ci parli della storia di culturale del tuo paese, comunque il Camerun è stato un paese che all'epoca fu colonizzato, no? Diciamo, ci furono, come hai detto tu prima giustamente, gli inglesi e i francesi. Se ne ha risentito la cultura stessa del vostro paese, cioè un quadro storico generale? Sì, a livello culturale comunque noi siamo bravi persone a livello culturale, cioè già siamo Bantu, tra virgolette. Uno che conosce la vera definizione di un Bantu sa che in Africa se c'è tra virgolette un black intelligente è un Bantu. Un Bantu è, cioè l'Africa centrale comunque siamo Bantu, cioè il nostro un modo di chiamarci, se posso dire così, perché la realtà in Africa insomma è che l'Africa non ha scritto la sua storia, quindi certe cose che noi abbiamo avuto, non vorrei parlare del Ruanda o del Burundi, però vorrei parlare della Ruanda, perché si è avuto, non so le nomi che esistevano, la gente ha parlato, però forse la domanda, io direi che sono Bantu, perché Bantu? Perché tutta l'Africa centrale è fatta dei Bantu e così. Perché la storia è lunga, non ho voglia di spiegarla qua. Però, campo culturale proprio siamo ricchi, ricchissimi, però sta le cose si stanno cambiando perché l'Africa, tutti si spostano e dimenticano le loro radici. E questo fa parte della debolezza del settore. A livello culturale già ho parlato delle lingue, che abbiamo più di 200 lingue, abbiamo tante varietà di musica, tante varietà. Quello che ho messo, quello che vi ho dato oggi è giusto una parte, proprio tante varietà, perché se abbiamo più di 200 lingue vuol dire che abbiamo più di 200 etni, vuol dire che abbiamo magari più di 150-160 a 170 tribù in un paese dove ci sono soltanto adesso circa 22 milioni di abitanti, quindi vuol dire che è un paese molto molto misto, perché in Camerun ci sono anche ministri che hanno cioè in Africa centrale particolarmente magari ministri che hanno origine per esempio del Chad, che hanno origine per esempio del Nigeria, quindi abbiamo una cultura molto molto mista. E noi siamo contenti almeno per questo, perché questo fa soprattutto a livello della pace. Ta politique paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui décidé de nous exclure de la gamme. Tu veux savoir précis pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur l'autre toit, ces fillettes n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école sert plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, tes ministres friment dans nos rues en bras d'océan. Ah, précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on autre fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on autre fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Président, tes potes vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes, spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance, ils frustrent le peuple. Ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le con de service, un président dépassé. Ils n'ont qu'un rêve de remplacer. Prendre ta place est un objectif déclaré. Précis, le Cameroun va mal. Malgré la paix, le Cameroun lui va très mal. Les Camerounais souffrent de martyrs. Ils crèvent de faim, y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi. Le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout, surtout ne te détourne pas. Sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Précis, les jeunes ne rêvent plus. Président, président, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice et bascule. Et quand le monde avance, nous au bled on recule. Président, tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Bras, vas-y Président, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Failles, qu'on te le dise par deux fois. Fais ton job et ton job c'est d'arrêter ça. Ah Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Président, aujourd'hui je te précise, la pensée du peuple, faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui. C'est à toi de voir, la menace elle persiste. Président, le peuple est fort, même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Il a la force du nombre, il peut te donner tort. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Ils prennent la répression, l'usage des canons contre son peuple c'est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non, ils font peut-être du bruit, mais ils ont des raisons. Quelles sont tes intentions? As-tu des solutions? Parce que faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre raid. Ah Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Ah Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Ils disent défendre ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui décidais de nous exclure de la gamme, je veux savoir. Ah, puta qui c'est haut. C'est gagné, c'est à ma bonne abandon. Anesso Mandela. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demande à l'Afrique, mais qu'elle a béni. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses canapés, je me demande à l'Afrique, mais qu'elle a béni. Africa, les cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Les malades de Wendy. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses cadavres, je me demande Africa, mais quel avenir? Au Mande Bakana Wone. Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie. genou un afiva, oh la chasse au pouvoir. Un genou un afiva, c'est la dictature. Genou un afiva, oh la guerre civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas c'est la paix. Un genou un afiva, oh la chasse au pouvoir. Un genou un afiva, oh c'est la dictature. Genou un afiva, oh la guerre civile. Africa, les cadavres un peu partout, hein. Baptiste Lumumba, où es-tu? Serge Ndjapou, toujours derrière moi. Ayokuda Kinteo, Anasha Kazulu, Thomas Sankara, Douala Mangabel. Parashara Kangana Onabe Samora Machel Wewe Enes Wanji Onaha Mele Umyobe Kamelu Yoso Inewe Takala Bapo Ipo Wasu Banongo Mwa Masu Mese. Akuta kite o, singa misia mabana bongo. Aneso Mandela o, singa nibe mabana bongo. Feliz mundo o, singa misia mabana bongo. Ragazzi, se siete in onda e ci state ascoltando, lanciate un urlo, qualcosa, perché ci è arrivata una maledizione, non sappiamo da che cosa ci stanno boicottando, non lo so, i servizi segreti forse, Peppe? Forse siamo diventati troppo scomodi, stiamo dicendo troppe informazioni utili e quindi qualcuno ci vuole censurare, però siamo più forti alla censura. Forse è il rettore che ci censura, Ciccio. Giovannino. Forse Giovanni La Torre che non vuole che andiamo in onda e ci censura. No, scherzo. Comunque, dopo mille problemi siamo di nuovo online finalmente, possiamo continuare la nostra intervista al nostro leone d'Africa. Come vengono chiamati i camerunesi, vero? Camerunesi, sì. Poni, leone, nella mia lingua tradizionale si dice ingom, quindi sono un ingom. Va bene, Boni, abbiamo superato i problemi riguardanti la parte tecnica e cerchiamo di andare avanti sempre con lo stesso spirito, CID, che ci accomuna noi di Clandestino CID su Fuori Onda Radio ogni lunedì. Allora, Boni, stavamo parlando praticamente della situazione, abbiamo lanciato un grido d'allarme parlando della situazione politica, culturale del tuo paese. Praticamente Boni ci ha illustrato la situazione politica, culturale del Camerun, riguardante comunque anche una linea storica. Una linea storica che andiamo a commentare con i fatti che succedono adesso in Africa, quali tipo la guerra nel Mali. Se Boni vuole, conosce sicuramente quello che sta succedendo adesso nel Mali, se ti va di spendere più di due parole. Due parole anche 100 forse, perché comunque gli argomenti sono molto molto larghi, quindi ci sono tante tante cose da dire. Ogni volta che un soggetto riguarda un continente, se posso dire tra virgolette, sofferente come l'Africa, il Mali, comunque, come tutte le cose che succedono in Africa, no? Cioè la realtà è un'altra talvolta. Mi dispiace che un paese così, dove la gente stava bene, dove avevano un potenziale culturale proprio elevato rispetto a tanti altri paesi, e tutto questo si distrugge in pochi tempo. La situazione in Mali qual è? Cioè, il Mali è accanto vicino all'Algeria, l'Algeria che ha i suoi problemi, e poi gli interessi, cioè in Mali non su quello che sta succedendo in Mali non dipende al 30% del povero popolo del maliano, se posso dire così, si dice maliano, no? Generalmente in Africa, quando ci sono gli interessi, generalmente ci sono vari modi di arrivare al punto voluto, mascherando con altre cose. La realtà di quello che è in Malia non è tanto un problema del terrorismo, secondo me, e invece sì, non è tanto un problema del terrorismo, è invece un problema di interessi. Tutti sappiamo che in Malia c'è una grande zona ricca con l'uranium, cioè c'è l'uranium che è un prodotto, diciamo tra virgolette, naturale, una materia prima naturale importante per quelli che hanno bisogno della potenza. Quindi queste cose sono importanti, cioè non c'è un segreto, la realtà è questo. Eppure ci sono i terroristi, non lo dobbiamo negare, perché la gente che arriva a una città inizia magari a tagliare i piedi della gente, i mani, dicendo che fanno, come lo chiamano, quella cosa della croyanza, della religione musulmana, lo chiamano il potere, tu lo sai, no? Cioè, vogliono applicare, non so, il jihad, non so, comunque un modo, dicono tra virgolette, un metodo per rispettare la religione musulmana, che comunque tutto questo non c'entra con la religione. Insomma, il problema del Malia, come tutti i problemi, viene da lontano. Cioè si sente che la cosa è stata preparata e sta muovendo gli spiriti da una parte e dall'altra. Perché questi stia dicendo terroristi che, tra virgolette, non sappiamo dove vengono i mezzi, come fanno ad avere queste macchine, come fanno ad avere la benzina, come fanno a mangiare, come fanno ad avere tutte le grandi formazioni nel deserto. Quindi, insomma, il Malia subisce tutto qua. E siamo là, poverini, popolo che non ha niente, che sta correndo per salvare almeno la vita. Cioè miliardi, stiamo parlando di migliaia di persone che lasciano tutto per fuggire la morte. Sì. Finalmente qualcuno che dice la verità, quello che sta succedendo nel Mali. Perché questa guerra non è una lotta al terrorismo, ma in realtà è una lotta per gli interessi, dato che quella zona dell'Africa è ricca di uranio che serve per fare le, come diceva appunto Boni, per fare le centrali nucleari. La Francia si è potere, dico, la Francia ha le centrali nucleari, quindi ha bisogno di uranio. Vabbè, ora ce l'ha. No, queste sono parole mie, tranquillo. Sono parole mie, dico, la Francia ora sta intervenendo là perché lì c'è l'uranio. E quindi diciamo che non è veramente una missione di pace, perché se fosse stato in un luogo dove non c'era nulla non sarebbe intervenuto nessuno, tranquilli. Se succedeva una guerra in un atollo dell'Oceania, non penso che andavano le potenze mondiali a intervenire per difendere i diritti delle popolazioni, così come i difensori del mondo come gli Stati Uniti, che quando succede qualcosa loro sono i primi a difendere le popolazioni indifese. Lì c'è oro, bauxite, uranio, manganese, ferro, diamanti e fosfato. Sto vedendo un'immagine ora su Google che indica i giacimenti che ci sono nel Mali. E guarda caso, lì ci sono queste cose, quindi c'è guerra. Se invece c'era, non lo so, una cosa che non serve, no? Non penso che c'era qualcuno, però i telegiornali dicono che è una missione di pace, quindi in realtà è una missione di pace, perché quello che passa dai telegiornali è vero, invece quello che non passa è una... sono delle fandoni che dicono i pazzi come noi, diciamo, che... questi qua, non so come veniamo accusati di essere dei millantanti. Cicci. Sì, vabbè, sostanzialmente la vedo come una nuova riappropriazione del territorio africano da parte delle potenze... delle superpotenze, della grande mano, anche comunque gli Stati Uniti svolgono sempre un ruolo importante nelle missioni, tra virgolette, di pace. E il fatto è, Boni, che comunque ritroviamo un'Africa che è stata comunque suddivisa proprio così a tavolino, creando e ricreando divergenze anche tra varie tribù. Ricordiamo all'epoca quando fu la suddivisione del territorio, e adesso ritroviamo di nuovo delle potenze che, nascondendosi dietro la parola democrazia, ritornano di nuovo lì, accendendo un nuovo focolaio un nuovo colonialismo, possiamo intenderlo così? No, perché neocolonialismo vuol dire un... neocolonialismo io lo vedo soprattutto nel senso c'è una chiamata. Chiediamo scusa. Vabbè. Allora, neocolonialismo, nuovo colonialismo. Aspettiamo. No, io, cioè, le parole, sai, la politica è un mondo molto mascherato. Neocolonialismo è, sì, un nuovo colonialismo, però anche, tra virgolette, cioè, da noi, neocolonialismo, noi lo diamo un'altra definizione. Perché? Perché neocolonialismo da noi è come se fossero i negri che ci stanno colonizzando anche. Perché lo dico? Perché se tu vai in un paese dove il Camerun, fidati, anche le case che sono qua ce ne sono là per una minorità, e quelli là stanno bene anche quando c'è la guerra, quindi loro vanno in Stati Uniti, tutte queste grandi università. Io ti posso assicurare che un ministro non ha bisogno di mandare il suo figlio all'università della Calabria, fidati, magari alla Sapienza se vuole, però se ha proprio voglia lo manda a Harvard o in Canada. Sono persone che hanno studiato pure, quindi l'Africa, se posso parlare rispetto, non rispetto alle domande, però rispetto a quello che ti posso dire io, rispetto per che ho vissuto là comunque 25 anni, ho viaggiato anche pure in 5 anni, in 5 paesi diversi dell'Africa, la realtà è un'altra, cioè al giorno oggi non si può dire sempre, cioè io che sono africano, io che sono camerunese, che magari tra virgolette ho studiato, ho imparato a scrivere A e B, non posso sempre dire che A è uguale a B o B è uguale a A, cioè dalla colonizzazione, da tutte queste cose che sono successe oggi come oggi, io non posso accusare qualunque persona. Cioè, come lo dico, c'è un grande cantante della Costa Lavori, del Costa Lavori, Alfa Blondi, cioè se uno sa che vanità di vanità, tutto è vanità, allora almeno uno deve avere coraggio di fare il lavoro, soprattutto che sa che questo fa crescere il lavoro, cioè l'istruzione, oppure come diceva magari un Mandela quando ha preso il potere in Sudafrica, cioè gli esempi dell'Africa, è l'istruzione che dovrebbe cambiare il mondo. Quando una persona è istruita e che fa le cose proprio come un vero vero bastardo, allora non ha proprio il senso della vita. Questo è il problema dell'Africa. Cioè, a me dispiace oggi venire qua a parlare, per esempio, che la Francia ha fatto questo, gli Stati Uniti ha fatto questo, e che cosa ha fatto l'Africa? Stiamo parlando delle cose che vanno da 100, 200 anni fa. Io nel mio paese, per esempio, se tu arrivi là per seguire la storia, c'è un re che tradisce l'altro, magari al nome dei soldi, c'è, per esempio, un Mobutu Sese Seko che fa uccidere Patrice Lumumba. Sto parlando del Congo. Tu arrivi per esempio in un paese come Burkina Faso, dove il presidente attuale uccise l'altro prima di Thomas Sankara, è morto con il suo migliore amico che era Thomas Sankara. Cioè tradire al nome del soldi o al nome di qualcosa, per sapendo che comunque uscendo con la persona io devo sfruttare il paese, io non so, la coscienza non c'è, cioè la voglia di fare bene le cose in Africa non c'è. Quindi io credo, ci credo tanto, perché siamo tanti che studiamo magari qua in tutti questi paesi, io so che la nuova generazione cambierà le cose per forza. La realtà qual è? È che se un paese come Camerun, Chad, l'Africa ha più di 54 stati, se questi stati dicono, per esempio, noi, se tu vai in Congo un litro di kerosene per esempio è 1 euro, vai in Camerun è 1 euro, vai in queste tutte 54 paesi, 1 euro è il litro di kerosene, il kerosene non cambia più mai prezzo, non c'è un blocco, non c'è un sistema che può fare le cose, e tutti sappiamo che questo sistema non esiste perché gli altri non vogliono che questo sistema ci sia. Perché se ci sia quel sistema, loro non potrebbero sfruttare più. Dove è la guerra? La guerra è per sfruttare, la guerra non è per realizzare qualcosa in Africa. Cioè, e questa è la realtà. Cioè, io parlo non perché sono camerunese, perché sono africano. vedi per esempio quello che si fa in Tunisia, non so, la rivoluzione e tutte queste cose, dove la gente si ammassa, si è talvolta dicendo al nome della religione, Dio è unico, tutti abbiamo lo stesso Dio. Non lo dico perché sono cattolico, lo dico perché quando un musulmano prega dicendo Allah, sta dicendo la stessa cosa quando tu preghi dicendo Gesù. Però magari in modo diverso, però è la stessa persona. Non ci sono 10.000 Dio. Secondo me c'è un solo Dio e nessuno può uccidere al nome di Dio, perché Dio non ha mai ucciso il suo. Dio non ha mai ucciso nessuno. Se uno, Dio ci dà la libertà di fare quello che vuoi, già l'uomo non muore, tutti lo sappiamo. Io sono molto molto contento perché cioè quando io vedo proprio la storia della terra, non dirmi io sono, non sono un angelo, però la realtà è che è la fine di queste persone. Dov'è? Io sono venuto in Europa da 2009, ho fatto la Francia, oppure che sono tornato qualche giorno fa, un mese e mezzo, Belgium, Svizzera, Germania, anche magari tante città in Milan, però ci posso assicurare di una cosa, ho la fierità di tornare in camera, perché la vita è la stessa, l'amore è lo stesso, ce l'ho l'amore a casa. Purtroppo dove c'è la guerra non ce l'hai questo amore, cioè cancella tutto, cioè l'amore non è soldi, non è macchina, non è casa, la fierità, la libertà di vivere quando non c'è, proprio tutto, cancella tutto. Il problema dell'Africa non è i soldi, non è i soldi, è la guerra. Cioè, e quando noi parliamo per esempio della colonizzazione, l'Africa non aveva bisogno della colonizzazione. Noi del mio paese non ha mai nevicato, non ho bisogno di avere le coperte per sopravvivere. E io quando mio papà mi parla della storia, i miei ancestri facevano anche più di 150, 140, 100 anni di vita nella foresta. E che devo dire? Ti sto dicendo tutte queste cose per sapere che la realtà anche è la coscienza africana. Ci vuole una coscienza, ci vuole un modo di fare le cose, ci vuole l'amore di fare le cose. Perché un presidente africano del Camerun, quasi tutti i presidenti, lavorano come se fosse un Dio che gli sta dicendo firmi, firmi, firmi, perché sto parlando nel senso del dovere, cioè libertà non c'è, la libertà non c'è, dove è la guerra? Però come fare a parlare di una cosa che esiste da più di 200 anni? Cioè come fa uno a non notare quello che deve fare lui? Parliamo per esempio dell'università, ma l'Africa ce l'ha i soldi per fare l'università? Dove ho studiato io a Yaoundé, è un'università che ha più di 50.000 studenti, l'Africa, perché noi siamo comunque in Africa centrale, tu vai su, metti l'università di Yaoundé, ci sono tutte le facoltà, ma come studiano là, con quali mezzi, bisogna vedere. Un altro discorso, quando c'è un blocco, per esempio io sono alla Calabria, vedo un po', non dico che sono al paradiso, però vedo almeno questa volontà di un prof che si affatica, che fa tutto per dare. Però da noi quando un prof arriva, non trova nemmeno il coraggio di avere questa volontà perché non c'è niente. E talvolta è costretto a tornare in Europa. La domanda non mi ricordo qual è, adesso possiamo tornare alla domanda, però vi sto dicendo delle cose, la realtà, il problema dell'Africa è la guerra, non è tanto lo sfruttamento, sì, quindi a me ne frego proprio dello sfruttamento, se non fosse la guerra io sarò sempre contento della nostra povertà, lo posso assicurare. Che belle parole, Boni. Qualcuno ti ha nominato come un profeta questa sera, un profeta dell'Africa. No, comunque sostanzialmente bello quello che hai detto, molto riflessivo. C'è anche da dire che comunque ci sono tanti ragazzi che vengono dall'Africa e sono molto più occidentali di noi che stiamo in Occidente. Questo lo vedo come un male io, perché comunque anche il reggae stesso, bombo clap, no? Rispetto alla tua cultura, alla tua tradizione, no? È sempre così. E quindi il tuo si sente tanto ed è fantastico questo spirito che hai. Quindi sostanzialmente nelle nuove generazioni vedi lo spiraglio dell'Africa Unite, quello che è. Non l'Africa Unite, perché comunque non abbiamo tanto dell'Africa Unite, però diciamo l'Africa della pace. perché la realtà è che non, io per esempio ti posso assicurare, non ho rancore con la Francia, uno stato con la Francia non ho rancore, perché il rancore non mi porterà da nulla parte. Ho uno stato come, diciamo, non abbiamo rancore, la nuova generazione l'ha capito che ci vuole soltanto il nostro modo di fare le cose. Tra virgolette Africa United, perché tutto quello che uno può fare da solo non darà mai il risultato di una cosa che si fa in comune. Per questo anche l'Europa, io posso prendere l'Europa, l'esempio di in Europa, quando sono andato in Francia il 28 novembre scorso, 2012, per una fiera che era a Auchan, perché in Francia c'è Auchan, Auchan è tipo despot, tipo metropolis. Ecco, c'è pure Auchan qua, va bene. Allora noi fanno gli stand dentro durante le feste di Natale. C'è un amico che mi ha invitato là, stavo vendendo proprio i gioielli, non so se gioielli, piccoli gioielli. È un bel affare perché un po' di soldi ne ci siamo fatti. Qualcosa mi ha colpito perché quando un italiano, io ero a Lilla, ho venduto, ho visto tanti, quasi italiani in Germania, però quando uno parla francese, perché io parlo francese, la mia lingua da bambino, quando io so che questo qua per esempio è straniero, io parlo anche più italiano e francese più velocemente da quando parlo francese e italiano, per esempio. Cioè parlo di più francese perché lo parlo da bimbo. Allora, quando un italiano veniva a comprare qualcosa e io in francese gli chiedevo da dove vieni, lui mi diceva per esempio che è italiano. E iniziamo a parlare italiano. Sai, una cosa che mi ha colpito. Cioè, lui mi dice, io sono in Francia per esempio da 30 anni. E lui ha questa fierta di stare là. In Africa, per esempio, queste cose sono difficili da esprimere. Perché quando un burundese, per esempio, arriva in Camerun, perché ce ne sono pure tante, o un ruandese, che ti dirà, per esempio, sono da 30 anni, però sono l'unico. Perché da 30 anni, non so, sono un po' emozionato, però... Però lui ti dirà da 30 anni, non so nemmeno cosa, non so nemmeno se posso riconoscere dove era la mia casa. Perché sono andato da me come qualcuno che non aveva, cioè non avevo scelta. Dio mi ha salvato. E appunto lui dice, proprio Dio mi ha salvato la vita. E quando tu, sono, cioè sono le storie talmente forti che uno non può immaginare. Cioè la pace non ha preso. Almeno l'Africa ha bisogno della pace e questo lo dovrebbero capire loro, quando dico loro cioè il mondo, no? Però prendendo per esempio l'esempio sull'Asia, che magari non abbiamo lo stesso potenziale intellettuale, ma anche noi dobbiamo credere e crescere. Su questo la domanda era ho risposto, quindi su questo sono sicuro che dobbiamo fare qualcosa, sì. Perché quando c'è la pace ognuno può spostarsi dove vuole, la vita diventa bella. Perché quando quell'italiano con quel sorriso me lo diceva, ho capito che la pace è importante. E quando parlavi dell'Africa Unite, Africa Unite perché è l'unione che fa la forza comunque. Per l'Italia non può uscire dalla zona europea, perché se l'Italia per esempio esce, la Francia e la Germania non ce la fanno. È così, la vita è così, e la forza dell'Europa è queste, sono queste tre nazioni. E in Africa anche forse l'Africa del Sud, i paesi come Ghana, i paesi che hanno già una certa stabilità, devono avere questo coraggio di dire va bene, questa strada è questa, la strada giusta è questa. Secondo me è tutto qua. Dobbiamo essere consapevoli anche noi della realtà. Il rancore non porta da nulla parte. Sicuramente l'Africa deve, però abbiamo bisogno della pace, almeno. Boni, ma tu non pensi che la pace è legata anche allo sfruttamento? Se finisce lo sfruttamento, inizia anche la pace, perché questa guerra è causata là dal fatto che ci sono interessi, quindi le nazioni spingono per fare la guerra, l'Europa finanzia i super dittatori africani dandogli delle armi, così possono tenere buoni le popolazioni. Se finisce questo sfruttamento, quindi di conseguenza secondo me inizia anche la pace. Ma la pensi così? non la penso così. Lo sfruttamento comunque rimarrà sempre fino alla fine del mondo. Questo nessuno non lo può. Cioè, lo sfruttamento non è soltanto in Africa, lo sfruttamento è anche in Europa. I paesi come la Grecia non sono stati così bastardi per ritrovarsi nelle loro situazioni. Cioè, l'uomo ha sempre sete e fame, questo è sicuro. Però la realtà qual è? La realtà è che se le grandi potenze, vorrei dire gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, cioè tutti quelli che hanno questo potere di fare le cose alla grande, tra virgolette, perché ce li hanno i mezzi, se capiscono che la guerra non serve a loro, perché anche loro ce l'hanno un soffio di vita, hanno bisogno della vita, cioè hanno il valore, tra virgolette, umano, almeno questo cambierebbe le cose, cioè si può sfruttare senza guerra. Perché si può sfruttare senza guerra? Se per esempio la Francia ha bisogno del petrolio in Camerun, gli Stati Uniti hanno bisogno del Camerun, non dovrebbero nascondersi dietro la guerra, dovrebbero parlare fra di loro, venire magari a fare un prezzo basso, che approfitterà comunque a un popolo, diciamo, tra virgolette, non istrutto, però a delle persone che vivono, che hanno due braccia, che camminano, che parlano, che hanno una lingua, che hanno una terra, e non di cacciarli a nome del potere e di fare quello che vogliono. Secondo me non c'entra la guerra, dire che la guerra c'è a causa dello sfruttamento, io dirò di no. Dirò invece che la guerra sta a causa del fatto che quelli che vivono là lo meritano, secondo loro. Cioè, quelli che vivono là non hanno diritto alla vita, li possiamo fare quello che vogliamo noi. Vuol dire che loro lo fanno, perché lo fanno a posto. Cioè, quando tu vedi il video, per esempio, anche le io sono informato su tante cose, anche, cioè non ho bisogno che qualcuno me lo dice, comunque vedendo anche certe trasmissioni. Quando tu vedi il video durante il genocidio di Ruanda, dove miliardi di persone sono state migliaia di persone sono state uccise, quando i caschi blu, cioè i soldati dell'America sono arrivati, i burundesi sono contenti, perché vedono che l'esercito dell'ONU è arrivato, cioè siamo salvi. Però loro erano venuti per prendere soltanto tutto persona bianca, e l'hanno fatto di fronte a loro. Cioè hanno preso, c'erano il bus, o allora diciamo tutti quelli che avevano tutto quelli che avevano un passaporto che non apparteneva all'Africa, e questi bus li hanno messo. Ma sai quello che è successo dopo? Hanno ucciso tutte queste persone. Cioè la ribellione è venuta a chiudere, perché quando loro sono andati, hanno preso, sto parlando delle trasmissioni dove parla un ministro di quell'epoca, per esempio un ministro francese, un soldato di quell'epoca, una persona che ha sopravvissuto in quell'epoca. Se non fosse magari un generale ruandese, non so come si chiama, avrebbero ammassato tutto. Meno male che è arrivato, perché lui era uno che lavorava all'opposizione e aveva la sua guardia. Meno male che è arrivato un certo tempo, però avevano già ucciso tanti. Sto parlando delle realtà della storia. Allora, quando tu vedi, è una storia di 1994, quando tu vedi una cosa del genere, ma secondo te, la realtà dell'Africa è un'altra. E il non rispetto della la schiavitù non è mai finita. Queste sono le realtà della schiavitù. Queste sono le, cioè, non hai bisogno di vedere quelle foto dove mettevano le catene alla gente portate in America, in Francia o ovunque, per sfruttarli. C'è ancora la schiavitù. Cioè, uno che vede di fronte a te, che parla, che ha una lingua, però che tu, perché ce l'hai intelligente, perché non è nemmeno una cosa della forza, è l'intelligenza, perché se l'Africa fosse intelligente, io ti assicuro, non ci sarebbero queste cose. Perché oppure l'Africa ha potenza. L'Africa ha potenza nel senso che se l'Africa si unisce, tutto cambia. Per questo l'intelligenza non c'è. E l'intelligenza è che gli deve fare capire che vi dovete unire, perché l'unione fa la forza. Allora, quando non c'è intelligenza, quando non c'è l'istruzione, tu puoi fare quello che vuole di fronte alla persona, anche se lui ce l'ha la forza. Non è un problema di forza. Quindi, alla fine, che devo dire? Devo dire che lo sfruttamento non c'entra, è il non rispetto della dignità umana. Tutti lo sappiamo, cioè quando mettono tipo i diritti umani, mettono tutti questi. Ma secondo te, gli Stati Uniti possono fare l'università in Africa? La Francia può fare l'università in Africa? L'Inghilterra può fare, oppure l'Italia può fare l'università in Africa? Perché non lo fanno? Perché non gli servono le università. Non gli servono le università. E se tu vedi, io ci prendo una convenzione dell'Italia, per esempio. 450 studenti camerunesi vengono in Italia da 1900, non so, magari da 2000, io quello che sono sicuro, da 2000, minimo. Non so se già dietro avevano la stessa convenzione. Io sono venuto a 2008, sto parlando di 450 persone che vengono soltanto in Italia, ma sai quanti vanno in Francia e in Canada? Ma tu mi puoi dire dove vanno queste persone dopo gli studi? Ti posso assicurare che su 450 non tornano, massimo. Cioè quelli che hanno studiato proprio bene, se 50 tornano sono molti. Perché? Perché quando arrivano là oppure in questo sistema, dove le cose vanno, anche io a loro, se io vado in Camerun, magari dopo gli studi, c'è la mia famiglia, ma tutti, ognuno ama la sua moglie, i suoi bimbi. Se tu arrivi a un posto dove la gente non fa le cose per bene, prendi le tue valigie e te ne vai via. Ma molti vivono qua. Io conosco molti dei miei zii che sono dottori che lavorano in Canada, che vengono magari dopo 6 anni. Magari anche uno ha perso la sua mamma, non viene nemmeno a letto, ma all'otto manda i soldi. Perché oppure lui diventa un bianco, diciamo, tra virgolette, no? Però non ho un problema nemmeno di colera, ho un problema di... non nemmeno di mentalità, di... perché la mentalità è un'altra cosa, di, no, non nemmeno di cultura, della fede, perché in queste cose talvolta bisogna mettere, perché secondo me la religione, non vediamo quello che fa la religione, non vediamo che i cattolici sono così, non vediamo, per una persona che ce l'ha la fede non può fare certe cose, secondo me è così, perché la fede ti fa vedere di fronte a te quello che stai facendo. Perché la mentalità è che uno ti può cambiare la mentalità. Hitler aveva una mentalità, tutte queste persone avevano, anche quelli che parlano. Ma l'ONU è un'organizzazione, per esempio, incredibile. Hanno tutte le più belle mentalità del mondo. Quindi, secondo me, talvolta, in questo amore bisogna parlare di Dio, anche se non esiste. Perché se c'è un Dio, secondo me, anche se non esiste, se c'è un Dio, ci vuole un minimo. La guerra in Africa non è un problema di sfruttamento, è un problema di non rispetto di un essere umano che deve avere diritto da quella parte del mondo. Tutto qua c'è, quella zona deve essere è stata fatta così, è stata, cioè è decisa di essere fatta una zona di sfruttamento, perché loro non sono persone. Cioè è così, sto parlando della realtà, cioè il risultato secondo me è così. Però siamo noi che viviamo là che dobbiamo sapere che bisogna crescere, bisogna cambiare le cose. Siamo noi. Per questo ho parlato della nuova generazione, anche del magari di però la mentalità non cambierà tanto. Purtroppo, lo sto dicendo purtroppo, fortunatamente, in Europa pure, io vivo qua, non posso parlare, io ce li ho tanti amici italiani, pure loro sono stati in Francia. Purtroppo la gente... la nuova generazione non abbiamo la stessa cosa, il stesso modo di vedere le cose. Quindi su questo io ci credo tanto che l'Africa avrà forza, perché negli anni, fra 20-30 anni, io sono sicuro che ci saranno pure tanti europei, fra i quali magari gli italiani sicuramente pure, perché già se ne sono là tanto in Camerun, dove c'è la pace, fortunatamente, tra virgolette, anche se è mascherato pure, però noi stiamo bene così. Io sono sicuro che ci saranno tanti che migreranno, che già stanno migrando, già molti in Africa, per fare le loro firme, le loro cose. Tutto questo, anche l'istruzione sta aumentando di più in più. Sono sicuro che tutto andrà bene. E va bene. Io questa domanda proprio, sono stato lungo. Grazie. Oh, non ci fa piacere ascoltarti, Bori. Intanto mandiamo un altro pezzo di quelli che hai portato. Ah. Sì, tranquillo, mandiamo, non lo so. Scelgo io, dai, mandiamo. questo qui. Ok, mandiamo questo. Donne-moi tout même quand il reste plus rien. Rends-moi sous de toi quand rien n'est bien. Fais demain quand le présent est chien, car j'en fais autant. Lis mes peines avant que je les dise. Oublie mes hontes sans que je précise. Cache-le-moi si un jour tu méprises, car j'en ferai autant. Et je sais que c'est un peu trop, que je demande plus qu'il faut, mais je te donne plus que des mots. Comme un fils, fais-moi croire qu'on tout finit. Et comme un fils, fais-moi voir quand tout est dit. Et comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Comme un fils, je te devrai toujours ma vie. Si tu m'aimes comme un fils, dis-le-moi si tout autour de moi m'est hostile et que je le vois pas. Tiens ma main quand tout me pointe du doigt, car j'en ferai aucun. Ah, et si je pleure pour acquis mes chances, fais-moi peur que plus jamais j'y pense. Tiens ma tête quand elle fait plus de sens, car j'en ferai autant. Mais je sais que c'est un peu trop, que je demande plus que je veux, mais je promets plus que des mots. Comme un fils, fais-moi croire quand tout finit. Oh, et comme un fils, fais-moi voir quand tout est nuit. Et comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Oh, comme un fils, je te devrai toujours ma vie. Si tu m'aimes comme un fils, oh, oh, oh, oh, oh. Si nos yeux se croisent, dis que c'est toi. Oh, oh, oh, oh. On s'en voudrait à vous si on se manquait. Et si tu es passé, reviens-moi, car je ne passerai pas toute ma vie à tes cris, ni à t'imaginer. Comme un fils, fais-moi croire qu'on tout finit. Et comme un fils, fais-moi voir quand tout est nuit. Et comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Oh, comme un fils, je te devrai toujours ma vie. Si tu m'aimes comme un fils. Si ritorna Clandestino G fuori onda radio. Ogni sono le 23:52, una bellissima puntata con il nostro ospite dal Cameroun, Boni. Grande chiacchierata, ancora ce ne saranno. Dopo aver affrontato comunque il problema cardine che affligge il continente africano, siamo arrivati alla conclusione che comunque più cultura, più istruzione per le nuove generazioni. Adesso, Boni, avevo letto niente questo articolo che praticamente riguarda proprio il tuo paese. Tu studi biologia, quindi ci saprai dir di più. E niente, c'è proprio questo popolo, Bangwa, che praticamente si sta letteralmente estinguendo, nel senso che hanno il problema della malattia del sonno. Tu puoi dirci qualcos'altro? Il giornalismo ha anche un mondo incredibile quando mette c'è un popolo addetto in via di estinzione, ma è esagerato, dai. Diciamo che noi stiamo bene, è vero, la malattia si può, magari può succedere che... La malattia del sonno non è soltanto il camolo, è una malattia che anche qua un professore di biologo, un biologista italiano te lo può spiegare. C'è una mosca che quando ti quando inocula il suo, tra virgolette, veleno nel tuo corpo, ti dà questa cioè questa malattia che ti fa dormire così tanto. Cioè è dovuta, comunque il vettore è una mosca, comunque, a quello che non so io, magari che ci sia un'altra ragione. E che magari adesso è una regione particolare, perché può succedere che arriva una regione, non è in tutto il Camerun, è già Bangwa. Se io ti dico che non conosco già questa tribù, perché ti ho detto appunto che siamo più di 200 etni, quindi io non conosco, non ti posso enumerare già gli etni del mio paese, cioè, ci sono tanti che non conosco. Però la realtà qual è? Sono tutto questo che dobbiamo dire, sono problemi dell'Africa, le malattie. Malattia del sonno non è tanto grave, sono le, se l'AIDS per esempio, il paludismo che uccide tanto, perché il paludismo proprio è più, uccide in Africa più dell'AIDS, perché il paludismo è una, perché con l'AIDS già sappiamo che uno può vivere quando prende gli antiretroviro, invece con il paludismo sono talvolta nelle zone proprio lontano delle città, magari delle ospedali, perché ci sono certi paesi, è un problema di povertà pure, bisogna dirlo. Ci sono certe regioni che magari la gente non prende tante cura di loro stessi, no? Perché anche da noi ci sono tante medicine che non hanno nemmeno bisogno di andare all'ospedale. Ci sono proprio delle medicine particolari. Anche io quando sono in campo io non prendo medicina quando c'è il paludismo. Ci sono, abbiamo le, la mia mamma mi ha sempre, l'ha sempre fatto, non mi ha mai portato all'ospedale per... No, abbiamo, sì, ecco, le erbe proprio che curano per bene. Che devo dire, c'è comunque, siamo un popolo dove talvolta un padre può lasciare morire suo figlio per una cosa semplice. Che magari lui aveva i soldi, però il poverino stava là, lo porta all'ospedale all'ultimo momento perché vede che più adesso non va. Quindi l'ospedale è fatta, quando uno non sta bene deve andare all'ospedale. È vero che purtroppo ci sono che non hanno soldi per andare all'ospedale e che muoiono pure. La realtà è questa, E ci posso assicurare che in altri paesi è peggio, proprio peggio. Va bene, Boni, io vorrei mettere una canzone che ha proprio un titolo che ci sta a pennello con tutta la discussione e i commenti che abbiamo avuto. Una canzone che si chiama Freedom, il titolo è Freedom, ed è di Richard Evans, cantata a Woodstock. Si ritorna, Clandestino Cid, una serata interamente dedicata all'Africa con il nostro ospite che arriva dal Camerun, Boni. Partiamo con i commenti e le notizie comunque che ci arrivano direttamente e indirettamente, e per parlare anche un po', ci spostiamo adesso, Boni, arriviamo, non lo so, in Russia. Ti piace la Russia? Ok, anche a noi piace tutto. Praticamente dalla Russia che arrivano notizie abbastanza tristi, perché Putin vara la legge anti-gay. Sarà vietato persino parlarne. Praticamente ci sono state queste votazioni, se non sbaglio, nel Parlamento ci sono stati 395 voti favorevoli, uno astenuto e uno che ha votato contro. E comunque è qualcosa che oltre quello che abbiamo detto noi, perché adesso si parla proprio dell'amore tra due persone, un amore che viene proprio, non se ne può nemmeno parlare all'aperto, perché sei soggetto a multe fino a 15.000 euro e se ti va bene anche il carcere. Poni, a te il gelato. È una domanda un po' difficile da rispondere, perché comunque ogni stato, la Russia è indipendente, cioè alle sue regole. Io mi dispiace, Putin non firma la legge da solo. Magari Putin se stesso avrei detto non avrei voluto firmare una legge così. Magari io non posso parlare per dire se hanno fatto bene o se hanno fatto male. La realtà è che, per esempio, in Camerun è la stessa cosa. Quindi io ci posso assicurare che se torniamo indietro, perché non dobbiamo affollarci sulle realtà, non dobbiamo affollarsi sulle realtà dell'evoluzione della scienza e del mondo, no? Cioè delle tecnologie e tutte queste cose. Io ho conosciuto la parola gay magari quando avevo già 18 anni. Quindi ci sono certe cose che non vorrei ferire magari una persona che ha scelto un stile di vita, però dove vengo io non ho mai visto magari una volta, non so se mi ricordo, un gay. Magari vedere la coppia proprio, non mi ricordo che l'ho visto una volta in Camerun, però adesso ci sono, anzi tanti. Magari perché non ho frequentato certi posti. Sono persone come noi, hanno il diritto di fare la loro vita in tranquillità, questo è vero. Però mi dispiace la realtà, essendo pure, tra virgolette, uno che fa biologia. Se fossero soltanto i gay, ma tu sarei nato? Sì. Sul fatto biologico hai ragione, non ti do torto, perché comunque è la biologia, la conosciamo tutti. Però qua si va ben oltre il fattore biologico, cioè puoi sempre adottarlo un bambino, no? E magari ci sono tantissimi genitori, coppie etero, che non donano la stessa educazione che può dare magari una coppia gay. Sì, hai ragione. Io, dal mio punto di vista, ognuno ha il diritto di fare della sua vita quello che vuole. Sicuramente sì. Cioè io non ho una parte che prendo io. Cioè io ho gli amici che ho salutato, che sono gay, che ho abbracciato, no? Con tutto il rispetto, è normale, sono persone, non hanno rubato qualcosa a nessuno, non hanno, cioè, è una scelta di vita, e secondo me la vita è libertà, la vita è libertà, ancora la parola libertà, però quello non è tanto meno forte, però l'Africa ha proprio bisogno della libertà. Quindi parlando dei gay, io sono sicuro che avranno ragione, magari oggi hanno perso per il popolo, se no mi dispiace per i gay della Russia, però mi sa che in Italia ce la faranno comunque, no? E vabbè, speriamo che in Italia, che se la cavano, che noi siamo in Italia, non vediamo tanto quello che fa la Russia. Beh, comunque un occhio al mondo bisogna sempre darlo. Si è tornati indietro di parecchi anni, all'epoca di Stalin, della dittatura in Unione Sovietica, in cui non c'era diritto di... I gay infatti venivano uccisi, venivano carcerati. È sempre una privazione delle libertà personali di ognuno. Ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole. Poi lasciamo stare se la razza umana si estinguerà perché tutti diventano gay. Diciamo che secondo me è un po' difficile che tutti... Perché c'è gente, diciamo... che piace l'altro sesso, e c'è gente che può piacere lo stesso sesso. Diciamo che anche gli imperatori romani, Alessandro Magno stesso, che è uno dei... viene osannato come uno dei più grandi uomini della storia, era omosessuale. Quindi sono sempre esistiti, anche in natura esistono, anche degli animali sono omosessuali. Non mi sembra che ci sia qualcosa di antinaturale, antibiologico. Per procreare bisogna andare con una persona dell'altro sesso, ma diciamo che siccome nel mondo siamo pure 6-7 miliardi, quindi diciamo a voglia quanto ce ne sono che vanno con l'altro sesso. E il problema è questo qua, questa legge razziale, proprio una legge... Perché se domani il Parlamento russo si sveglia e dice che le persone che mettono la maglietta verde non possono uscire in strada, è la stessa cosa, diciamo. È sempre un modo di pensare diverso. Ma non è sponsato, chi c'ha la barba, chi c'ha i capelli lunghi, chi c'ha le orecchie più lunghe. È sempre un piccolo passo verso... il nazismo, quasi, oserei dire. Però io volevo dire, no, la parola, ci sono state parole che mi fanno paura, la parola nazismo non è tanto bella. Comunque, quello che io vorrei dire è che, diciamo così, che quando voi siete in minorità, per raggiungere un obiettivo non è mai facile, è sempre una guerra. l'Africa, per esempio, subisce non perché è una minorità, ma perché vive in minorità. Cioè ogni stato fa quello che vuole, ogni stato. Invece se l'Africa era un blocco, tutto cambia. Oppure secondo me sarebbe così, magari queste persone che non so nemmeno perché gli danno quel nome di gay, non so nemmeno perché fanno questa distinzione. Queste persone sono persone come noi, magari se questa cosa capita in Russia, se capita in Italia, se capita in Francia, oppure in Francia è capitato, avete visto, no? Quindi se loro fanno un blocco, la voce, il potere della loro voce cambia. Cioè se quelli della Russia, quelli dell'Italia, quelli delle, queste persone, quelli della Francia, tutto questo fanno un blocco, la cosa cambia. Comunque è una guerra che secondo me tu non puoi cambiare la vita di una persona, bisogna vedere la persona è contenta di fare quello che vuole, se no tutto cambia. A me dispiace per loro. Comunque leggevo questo articolo di Amnesty International che denuncia l'omofobia e l'umiliazione nelle prigioni del Camerun. Ma come sei informato? va bene, da me ci vuole, no, io in Camerun sarebbe impossibile per adesso, mi dispiace, però sarebbe così. A me va bene, però se fosse io gli avrò lasciato la libertà di fare quello che voglio. A me va bene perché il problema non mi riguarda tanto, però mi dispiace per loro. Sai, la realtà è che talvolta oppure la fame può creare delle cose, cioè talvolta oppure una situazione personale può portare. Io sono convinto al 100% che su 100 gay ci sono minimo 50 che non sono naturalmente gay, sono sicuro, magari per il piacere, magari perché c'è una cosa che un bimbo nasce e poi ce l'ha quell'affezione verso lo stesso sesso, no? Però c'è una cosa anche che una persona normale che usciva con le donne e che cambia così da un giorno all'altro e diventa gay. Su questo io non lo chiamo gay. Chiamo magari una che voleva risolvere i suoi problemi e fare la sua vita in un altro modo. È normale perché è il suo corpo. Però ce l'ho più la debolezza di fronte a una persona che da bambino vive così e che gli impongono di vivere in un altro modo. La cosa diventa diversa. E in Camerun io ti posso assicurare che su 100 gay ci sono almeno 85 che cambiano così per la fame, perché non hanno iniziato all'inizio. È diverso. E poi sono cose che magari lo Stato non ha voglia di lasciare, perché in Camerun io ci sto parlando di dove vivo, che non ho mai avuto un amico gay, per esempio. Sono partito dal Camerun a 25 anni, l'università che ho fatto a Guayaquil, avevo visto una volta uno studente gay che me l'avevano mostrato, che quello là è gay, però la cosa non era proprio dove andata. Cosa vuol dire? Che c'è una differenza fra una situazione biologicamente dimostrabile, cioè ci sono i fatti, e una persona che cambia così la vita da un... Comunque, anche se questa persona cambia, è comunque il suo corpo, ce l'ha il diritto di fare quello che vuole, però la cosa diventa diversa. Il Camerun ha paura, cioè il Ministero degli Affari, c'è un ministero là che si chiama della condizione sociale, ha paura che lasciando la cosa così, la gente magari, cioè il numero aumenta con una velocità, cioè stanno, perché sono cose che da noi erano proprio... quasi non esisteva, quasi. E questo fatto comunque di far paura, che alla fine comunque sono persone che benissimamente si potrebbero sposare per andare a pagare le tasse come le paga una coppia etero, così, ma il fattore è dato dalla cultura, da una politica che comunque non accetta determinate cose, come è capitato adesso in Russia, oppure c'è l'incubo della religione che comunque... L'incubo della religione, no. Allora, cosa è successo in Camerun? Io ti spiego bene. C'è una coppia giovane francese, di origine camerunese, che magari li hanno trovato baciandosi, non so, un posto pubblico, sai, militari, magari non hanno nemmeno studiato. Li hanno portato là via, perché in Camerun ci sono gente che magari lavora fuori, un poliziotto proprio così, ce l'hai l'uniforme del poliziotto, quindi lui ti dice che deve fare il suo lavoro. Magari non c'è, cioè, i diritti umani non ancora, non che abbiamo già aggiunto un livello molto alto, bisogna, stiamo parlando del Camerun, non è un problema dell'incubo potere, anche forse tra virgolette, però il problema è che queste persone pagano le tasse e tutto questo, sono persone normali, non dobbiamo nemmeno dubitare su di loro. Però io ci sto parlando di un altro fatto, che c'è una differenza fra uno che nasce da bambino e che ha l'affezione, che nasce per esempio ragazzo e che ha l'affezione per i ragazzi, e una differenza fra una persona che cambia vita, la cosa è diversa. Invece da noi, dato che siamo nei paesi poveri, cioè tutto può succedere. Allora, perché sono stati tanti, oggi parliamo magari dei gay, però ci sono tanti esempi che lo dimostrano da noi. Cioè il modo di vestirsi, il modo di fare le cose, sempre quando una nuova cosa arriva, la gente si affolla e poi la società diventa di più in più, cambia in modo talvolta strano. Abbiamo, cioè, io rispetto comunque la dignità. Non dico che un gay non è degno, perché è normale che lui sta bene comunque così, però se uno è normale, vorrei dire, se uno biologicamente non dimostra che è gay, io non vedo perché lui dovrebbe essere gay. O allora non vedo perché lui dovrebbe dire, cioè, bisogna essere quello che uno è. Se tu sei gay, io so che sei gay, io non ti posso ferire. Se io sono gay, io anche oppure sono contento, perché sono sicuro che sono una persona normale. Siamo sullo stesso piano, però la cosa è diversa. Di una persona magari che hai visto a 25 anni così, e poi due anni dopo lui ti fa delle cose che lui dirà, ma tu finalmente chi sei? Questa è un'altra realtà. E in Africa è probabile che, cioè, quello che sto dicendo, magari in questo senso che è la situazione, però è anche questi qua li hanno liberato subito, non è che li hanno liberato. Amnesty Internazionale deve piuttosto parlare dei veri problemi, perché questo invece è un vero problema, però non è che erano abbandonati. Ci sono degli avvocati in Camerun che difendono questo genere di situazioni. Sono persone protette, non è che ci sono persone dove quando sentono una cosa del genere di discriminazione, hanno delle persone che li possono difendere. Purtroppo in Africa tutto è capace di rovinare la società. Quando noi parliamo per esempio di una malattia come SIDA, meno male che il paese dove c'è il SIDA di più non è nemmeno il Camerun, è in Sudafrica. Mi dispiace per loro che sono in Africa, però che hanno più un po' tra virgolette potente, anche se purtroppo la maggioranza parte di quelle che soffrono del SIDA in Sudafrica sono di colore. La realtà è che la condizione umana deve essere rispettata. Un gay non vedo perché lui dovrebbe pagare questo prezzo, un gay normale, perché io, proprio un gay che non è normale, per me non è gay. Su questo io sono d'accordo su questo. Ha scelto la sua vita, deve vivere, però non dovrebbe parlare forte come uno che è gay. Cioè io li trovo insieme, non è che farò qualcosa, però io gli dirò almeno a lui che tu non sei gay di persona, quindi fai finta. È diversa la cosa così. Per questo... Sì, un altro pezzo, sì. Un po' di musica fa bene, quindi... Vai. No, hai scelto così? Canti dei sogni. È sempre Cornel. Cornel non è camerunese, però, no? Ho dimenticato di dirvelo, perché ho scelto... è la seconda musica di Cornel, forse sì, perché anche l'altro che abbiamo messo, Common Fist, è per lui. Però lui è del Ruanda. Aveva perso, però già adesso è di nazionalità canadese, aveva perso tutta la sua famiglia durante il genocidio del Ruanda, e la sua mamma l'aveva salvato buttandolo dietro, come si chiama, il poltrone. Non l'avevano visto, però ha visto i suoi morire di fronte a lui, piccolo, sotto. A me piace la sua musica perché sono parole molto molto forti. Et qu'on ne tiendrait peut-être plus longtemps. Dis-leur qu'on arrive. Dis-leur que tant d'autres nous suivent. Dis-leur qu'on n'est plus qu'à quelque part. avec ou sans papier, des marchands du rêve, des marchands du rêve, yeah. Dis-leur qu'ils ont droit au bonheur, et qu'un jour ce sera eux les meilleurs pour qu'ils restent dignes. Oh, oh. Dis-leur que demain est à eux, qu'ils fassent les adieux, leurs adieux en dépit des signes. Oh, oh, si tu descends, salue le courage de nos frères, salue la grandeur de leur âme, et tu diras à nos mères qu'on arrive chasser leur chagrin. Oh, oh, tu diras à nos pères qu'on attend, c'est qu'on fait le grand plan, ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Oh, dis-leur qu'on arrive, dis-leur qu'un drame nous poursuit, dis-leur qu'on n'est plus que quelque part, qu'on n'est plus que quelque part, qu'on est par milliers, avec ou sans papier, les marchands de rêve. Que le ciel nous attend, et qu'à force de vivre on comprend, qu'on y tiendra peut-être plus longtemps. Dis-leur qu'on arrive, dis-leur que quand nous poursuit, dis-leur qu'on n'est plus que quelque part, qu'on n'est plus que quelque part, avec ou sans papier, les marchands de rêve. Dis-leur qu'on arrive, dis-leur que dans nos poursuites, dis-leur qu'on n'est plus que quelque part, qu'on n'est plus que quelque part, avec ou sans papier, le marchand de rêve. Voilà. Dopo questo pezzo cantato da Bonnie, grandissimo, grandissimo Bonnie. Mercanti dei sogni, Ciccio, vai con la prossima, che ne so, quello che vuoi dire. Il mercante dei sogni, complimenti Boni, fantastica interpretazione, veramente. Niente, adesso Peppe, che dire, ci vogliamo spostare un po' sul tutto green, questione ambientale che è accaduta nel Mar Adriatico, praticamente c'è perdita di idrocarburi dalla piattaforma Rospo Mare. Praticamente dall'Abruzzo si vede questa chiazza di idrocarburi stimata in circa 1000 litri, è stata avvistata all'equipaggio della nave di stoccaggio Alba Marina. Praticamente si sta diffondendo questa piazza di petrolio, ha abbracciato già i litorali dell'Abruzzo e del Molise. Un altro, l'ennesimo danno ambientale, Boni. Sì, a me dispiace, però sapendo la realtà io dirò non farà danno per i paesi ricchi comunque, perché alla fine prendono magari queste cose, tutto quello che è tanto brutto e vanno a buttare da una zona da qualche parte lì in Africa. Comunque, la realtà qual è? Sì, beh, è vero, è la realtà del... Io sono... È la realtà della situazione, cioè qua uno mangia come vuole, da me ci sono che muoiono di fame, oppure vicini anche di più, cioè i paesi vicini. L'ambiente, tutto questo fa parte di uno che vuole avere tutto, no? Perché il cheroseno dovrebbe, perché questo dovrebbe succedere sempre? Io non so, anche l'anno scorso sei stato lì verso l'America, non so se ti ricordi, verso i Brasi, ecco, anche più forte con i danni, ecco, sì. Cioè la scienza già, il mondo comunque non abbiamo tanto voglia a mo' della tecnologia sempre, abbiamo bisogno di vivere bene. Io quando sono arrivato qua in Italia, io ci posso fare una domanda? Ma perché gli italiani, per esempio, non possono venire in Africa, cioè non so quando dire Italia, vuol dire anche Francia, tipo Inghilterra, a fare l'agricoltura, per esempio. Non per gli africani, però sapendo che li portano qua, perché da noi non abbiamo, per fare per esempio il pomodoro, io non ho bisogno di usare questi prodotti, tutto quello che fanno, la terra c'è, ma chi userà questa terra? Supponiamo che adesso c'è proprio la fine del mondo, ma questa terra cosa c'è? Ma era la stessa terra, però va bene, quindi è giusto un modo per dimostrare che la tecnologia e tutte queste cose non serve tanto al mondo, abbiamo bisogno di vivere bene. E per vivere bene magari ci sono i lati della tecnologia importanti e i lati della tecnologia proprio che dovrebbero essere cancellati, magari saputo però non usati. Cosa posso dire? Le parole come kerosene, oro, diamante. Sai una cosa? A me piacerebbe non parlare mai di queste cose nella mia vita. A me piacerebbe vivere tipo quando uno arriva con tanti milioni. Io gli dico già il discorso è chiuso, perché so già chi è quello là. Cioè, il valore della vita non si misura ai soldi o a questo, a tutto. No, la tranquillità, la fierta. Cioè, quando, se posso dire in francese, être heureux, essere felice, non dipende dai soldi, non dipende dal petrolio, né dai cose. Il mondo non ha bisogno di questo. E io ti posso assicurare una cosa, nessuno è nato per essere povero, nessuno è nato, nessuna famiglia al mondo è nato per essere povero, nessuno, perché se tutti eravamo, si dice, nati per essere poveri, allora saremmo tutti bene, è perché uno... Sì, se tutti eravamo nati per essere poveri, allora saremmo tutto bene. Se tu vedi per esempio Boni, ma Boni fa freddo, vedi che ce l'ho un altro giubbotto. L'unico che avevi, me lo dai, però tu non hai più freddo e anche io non ho più freddo e siamo salvati. Purtroppo ci sono che devono avere tutto a conto loro anche se gli altri muoiono. Secondo me è la realtà della vita. È la realtà della vita. Una giungla. È una giungla, ecco. Proprio una giungla, io essendo un leone, quindi io mangio tutti gli altri. Hai capito come? Bella Peppe. No, vabbè, è normale se ci fosse condivisione di tutto quello che c'è nel mondo, tutte le risorse, tutto il cibo. Nessuno morirebbe di fame in questo mondo. Soltanto che c'è una parte del mondo, l'Occidente, che mangia 10 volte i paesi del terzo mondo. Mangiavo bene, più bene in Camerun che in Italia. Sai perché? Perché quando mangio un'arancia in Camerun, è l'arancia naturale. Quando mangio un pomodoro in Camerun, è quasi naturale. Quasi perché? Perché mentre che viaggiavo, ci sono già quasi tutti questi prodotti là. Anche il mais che mangiavo, il gusto non è più lo stesso perché la gente usa i prodotti. Anche, cioè, tante cose cambiano. E ci sono già tante malattie adesso in Camerun, tipo cardiovascolare, che non esistevano tanto negli anni, cioè tanti anni fa, cioè altre malattie che dipendono dall'alimentazione, sociobiologia, ci sono gli esami concreti che posso fare, perché se tu porti un mais che è stato manipolato nel laboratorio, ha degli effetti secondari, che lo vuoi o no, che se tu usi per esempio le pillole, si dice, no? Per esempio per le ragazze, questo ha dei cioè ci sono dei danni nelle generazioni future, la scienza li sta dimostrando queste cose, quindi la vita naturale è la più bella, cioè ma perché coltivare su un piccola, per esempio una piccola superficie e avere, perché avere 1000 pomodori su una piccola pomodori, se io posso avere 1000 pomodori su una piccola superficie, se io posso avere 1000 pomodori su una grande superficie, che c'è? Che non manca? E che è buono? Magari mi direi che guadagni tempo, guadagni... La tecnologia talvolta estrapola la realtà cioè ci sono tante cose. Quando tu vedi una malattia come AIDS, AIDS non è caduta dal cielo. La realtà... E AIDS non è nato in Africa. Eh? La realtà del AIDS... AIDS sono le ricerche scientifiche che facendo gli incroci fra rapporto umano e animali, e sono arrivati là. Sono la storia vera è questa. Quando tu vedi, per esempio, sono stato in Francia ultimamente, uno che fa degli ibride, cioè un leone che fanno incrociare con un cane, ma se un cane del genere, io ho visto dei cani, cioè dei ibridi dei cani di più di 200 kg. Ma io ti dico, quando fa bu, tu sei a più di 100 metri, ma lo senti come se fosse accanto a te. Ma se la tecnologia è fatta per questo, non serve a niente. Meno male che quelli là li proteggono e tutti, però le predazioni a che cosa servono? Cioè, il mais, è vero, è buono a mangiare, però non abbiamo, ci sono tante, ancora tante, il mondo ha ancora tante terreno non sfruttati e fertili che possono usare per l'alimentazione. Quindi tu, Lion, lanci il messaggio bio, naturalmente, del cibo biologico, che tipo qui parlare di biologico nemmeno si può più in Italia, perché comunque è data anche l'atmosfera inquinata, vai sempre a mangiare un prodotto che è alterato biologicamente parlando, non parlando degli OGM, naturalmente sono altre cose. Il fatto, Boni, è che se uno coltiva tipo 100 piante di pomodori e va a e ha il suo business in quelle piante, non può permettersi di, per come il mercato oggi, che quelle 100 piante vadano a male. Tutte le 100 piante devono portare dei pomodori, altrimenti non c'è il business. Direi che ci sono prodotti e prodotti, amico mio. Almeno, ma tu che studi già? Ah, meno male che studi farmacia, quindi siamo nella stessa barca. Quello che volevo dire, no, è che il mondo è grande. Il mondo è talmente grande. Io quando ero in Camerun ti posso raccontare una storia, perché ce ne ho tante. Ho viaggiato in Camerun, quando tu vedi i confini del Camerun con uno dei nostri vicini che si chiama Repubblica Centrafricana, c'è una città del Camerun che si chiama Garoua-Boulaye. Sono andato da Garoua-Boulaye per Bangui, che è la capitale della Repubblica Centrafricana. Già quando sono arrivato alla frontiera era un incubo, perché già non c'era una bella strada, però ho fatto più di quasi 500 km su quella stradina fino a raggiungere la vera strada e arrivare. Comunque non è meno di 600 km Garoua-Boulaye Bangui. Allora ci posso assicurare, terreno, cioè non so quanti abitanti, quante case ho visto, però proprio una, ho detto, ma questo terreno qua chi serve? Allora, un italiano per esempio che produce un pomodoro in Africa, ma questo pomodoro non arriva in Italia, arriva pure, no? O allora un pomodoro che è fatto in Italia semplicemente al potere del terreno, cioè usando i prodotti normali, no? Capisci quello che voglio dire? Cioè che non hanno effetti secondari, è un buon pomodoro, è normale, è bello. Sto parlando dell'Italia, che giusto perché siamo in Italia, cioè, e anche l'Italia sicuramente è meglio, perché l'Italia comunque fa parte dei paesi del mondo dove si mangia bene, tutto lo sappiamo, tra virgolette bene. Quindi io cosa volevo dire è che c'è che fare peggio, no? Cioè il terreno c'è, cioè sto parlando della realtà, cioè in una dimensione proprio, ti giuro, terreno, Garoua-Boulaye Bangui, terreno fertile, terreno vivente, terreno però che non è mai sfruttato, perché là non ci siamo. Comunque questo discorso è abbastanza condivisibile, però dirlo qui in Calabria, che siamo come siamo cugini di voi africani, siamo la parte più povera d'Italia, anche noi siamo anche qui, comunque l'agricoltura è biologica, alla fine c'è ancora qui in Calabria, perché siamo anche noi sottosviluppati come voi africani, siamo l'Africa dell'Europa qui, conosci la Calabria. Comunque è vero quello che, comunque secondo me bisognerebbe incentivare i prodotti a chilometro zero, cioè se io produco dei pomodori qui in Calabria li mangio qua, non che li porto in America, oppure fare tutto questo viaggio con su gomma, inquinamento, incremento dei costi, consumo di tutto, insomma, le arance che vengono dalla Spagna qui. Ognuno nella propria zona deve cercare di consumare le cose che ha, e in più qualcosina si può anche importare, non è... Io lo dicevo perché tutti lo sappiamo, no? La buona banana è della mia zona, è dei paesi dell'America Latina. Io ho già mangiato la banana del Camerun qua a Mensa, perché è la stessa cosa. Io non dico Camerun perché lo stesso, era scritto Makossa Camerun. Io ho riconosciuto che veniva da Camerun. Ma perché la banana arriva qua? Io non so, perché magari abbiamo buoni produttori di banana là che lo fanno. Magari con l'aiuto, oppure se tu arrivi là sicuramente è un europeano che fa questo business. Il cacao. Però la banana è buona da noi, proprio un gusto incredibile. Oppure la banana dell'America Latina, sono i migliori del mondo comunque. E poi se tu vedi per esempio il cacao, i più grandi produttori del cacao sono in Africa. I più grandi è la Costa d'Avorio. Ci sono altri paesi grandi. Il cioccolato che è fatto in Europa, il cacao proviene dall'Africa. Il problema è un egoismo proprio incredibile, bisogna dire la verità. Cioè, io mangio bene il Camerun e nessuno non me lo può dimenticare, non mi può togliere di dire, perché anche la carne è sana, perché talvolta viene dalla foresta. Però, essendo povero, mangio male, anzi malissimo, per uno che è povero. Aspetta che finisco. Perché? Perché se tu arrivi in Camerun, adesso per esempio, il cibo che arriva da noi non è un cibo buono. Cioè sono per esempio, a me dispiace parlare di queste cose, sono per esempio, come si chiama, il pollo con acqua osside, la pulosa osside. Beh, sono delle cose che hanno effetti secondari. Il pesce che arriva là non è di buona qualità. Anche il mercato, le cose delle cinesi, anche in farmacia, i prodotti farmaceutici che vengono in Africa sono a 80% sbagliati. Ci sto parlando delle cose, delle realtà, e che induce e che fa dei peggiori casi nella salute. Ma tutto questo, per esempio, passa dalla Francia, dal porto francese. Allora, come fai tu un giorno se tu arrivi là e vedi un popolo che soffre già perché tutto quello che mangia è sbagliato, non perché sono incapace di produrre da loro, ma perché c'è uno che si a lui arrangia, profitta. Per questo ho detto, l'Africa ha bisogno di una coscienza. Io non in Africa tutti hanno studiato con le persone che lavorano là nella direzione delle cose agroalimentari, lo sanno tutti. Quando validano questo genere di cose, ma a chi è la falta? All'europeano o all'africano? È all'africano. Perché come fai tu a lasciare una medicina che tu sai che questa medicina fa finta di curare la persona ma la uccide? Però tu fai lasciare la medicina passare per salvare le tue tasche. Magari avere una bella macchina, una bella casa. E questa è la realtà. Mi dispiace. E queste sono cose che si fanno da anni passati. Quindi l'alimentazione. Vabbè, è proprio il caso di dire come tantissime multinazionali, quella Nestlé, la Ferrero, che vanno proprio in Africa a testare i propri prodotti alimentari sulle donne incinte, sui bambini, e poi, non lo so, arrivano qui in Europa e usano proprio le persone come cavi umane, comunque. No, praticamente ci sono tipo la Nestlé, conosci, che testa i suoi prodotti alimentari sui bambini africani, sulle donne, per un profitto che poi sarà in Europa, non certo in Africa. A me, già, io vi posso dire di una cosa, a me dispiace parlare con voi tutte queste cose, perché so che comunque parlando non cambierà niente. La realtà qual è? La realtà è che tutte le esperienze scientifiche si fanno in Africa, e tutti lo sappiamo. Perché in Africa non sono uomini che vivono lì. Sono persone che hanno valore, quindi si deve fare l'esperienza scientifica in Africa. E tu sai quello che vuol dire un'esperienza scientifica, cioè se tu vai su, per esempio su Google, ti prendo un esempio del Camerun, tu cerchi, fai le ricerche su un lago che si chiama Lac Nyos del Camerun, dove più di 2000, non so quante mille persone sono morte rispetto a un'esperienza scientifica. Però loro ti diranno dopo che è stato un, non so qual era la ragione. Sto parlando del Camerun, non voglio parlare della Costa d'Avorio. Amico mio, la realtà è che a me dispiace, però per questo sono arrivato alla conclusione che sono molto contento, perché so che la vita è molto corta. Cioè, io lo vedo e alla fine dico va bene, intanto loro, c'è un cantante in Camerun che dice che lui che mi uccide non rimane a morire, non, che celui che mi uccide non resta pas a morire, cioè che colui che mi ucciderà non, che rimane sempre, che lui non muore, cioè perché la vita non ci appartiene, fidiamoci. Ma tu uno che, cioè tutto quello, l'Europa sarà vuota un giorno, ma fidati, un giorno l'Europa, io ce l'ho l'amore per l'Europa, ma vorrei dire, non è che l'Africa rimarrà, un giorno l'Europa sarà vuota, un giorno l'America sarà vuota, un giorno uno dirà me ne vado, per forza, non perché non c'è la vita, perché non ha più voglia di rimanere là. Quindi io, la realtà è questa, gli esperimenti scientifici si fanno in Africa, cioè tutto quello che è importante non è fatto in Africa, questa è la realtà e questo subiamo. Purtroppo non possiamo dopo tanti anni parlare della stessa cosa, per questo sto dicendo, a me dispiace parlare di questo perché sono cose che si fanno da anni, da anni, da anni, da anni. Sul LACNIOS mi raccomando, tu scrivi LACNIOS e poi un giorno leggi la storia, cerchi di avere le informazioni giuste e vedrai la realtà. Tu dici è triste parlarne, però è giusto anche parlarne perché comunque sono fatti storici, fatti presenti che ancora accadono e molte persone se ne infischiano, non gliene frega niente di quello che sta succedendo. Perché stanno bene? Perché stanno bene? E perché non tutti? Perché uno deve stare sempre bene e un altro sempre male? Ma se l'altro sta sempre male, che non capisce che non sta male, allora oppure lui deve stare male. Io, a me dispiace. Mi dispiace perché un africano oggi, per esempio, che viene a dire che questo, ma bisogna dimostrare i fatti. Ma che cosa sta facendo l'Africa stessa? Quindi, appunto, ci sono gli stati che fanno meglio adesso, il paese come Ghana, il paese come, se tu vedi la vita del Ghana, tu vedi l'evoluzione del Ghana, tu capirai che effettivamente il problema dell'Africa è la coscienza. Perché in Ghana non so se c'è stato già un colpo di Stato in Ghana. E se c'è stato, non so da quante volte le elezioni vanno bene in Ghana. Un esempio proprio incredibile in Africa. Di paesi come Sudafrica, dove uno come Mandela, dove 27 anni di prigione, quando esce dalla prigione, aveva tutto il potere di poter fare la guerra. E anche quando ha superato le elezioni, ha detto non abbiamo bisogno della guerra, abbiamo bisogno della guerra. Quindi è un problema dell'amore per la sua patria. Abbiamo degli intellettuali, tu non puoi arrivare in Camerun e fare, cioè, tipo, fare magari una cosa dove uno non ti dirà questo è sbagliato. Almeno ci sarà uno, anche se non abita in Camerun, che ti dirà comunque su quell'argomento è così, ci sono, ti ho detto, 450 studenti camerunesi vengono in Italia, che dovrebbe essere di più in Francia, perché noi abbiamo più facilità di entrare in Francia che in Italia. Però adesso anche la Francia sta chiudendo perché è proprio piena, il punto è pieno. Perché là proprio in casa non so, ci vogliono cacciare, però assistiamo sempre. Perché anche... Vabbè, per prendere quello che gli servono. Quello che volevo dire è che, te l'ho detto, questi studenti quando finiscono di studiare purtroppo non tornano a casa perché non hanno un lavoro bene, non stanno bene, e anche io a posto loro è la stessa cosa, ho voglia di tornare, però se io arrivo là e poi non sto bene, ma che devo fare? Devo tornare da qualche parte dove starò bene. La realtà è questo, cioè bisogna organizzare le cose, bisogna fare, è così il problema dell'Africa, cioè abbiamo già detto tutto, quasi bisogna proprio quasi concludere, oppure la trasmissione, perché saremo là a dire le stesse cose e tutto. La realtà è questa, tutto qua. Va bene, allora come ci consiglia Boni, siamo alla fine delle trasmissioni. Io comunque vorrei lanciare il messaggio che arriva dalla Sila, la montagna alle tue spalle, diciamo, di fronte. Praticamente niente, adesso c'è l'intenzione di costruire una centrale a biomassa in Sila, in Sila, che un articolo riporta, praticamente ci sia l'aria più pulita d'Europa, pensa ha superato anche quella delle isole Svalbard vicino al Polo Nord. E niente, andare a costruire magari una centrale biomassa in Sila, andando a spendere soldi innanzitutto, andando a sfruttare un territorio, andando a inquinare soprattutto, inquinare qui l'aria più pulita, dovrò comunque un ambiente ancora tra virgolette vergine, perché comunque ci sono problemi quali tagli abusivi, abusivismo edilizio e inquinamento, perché c'è anche da dirlo questo. Ma andare a costruire una centrale biomassa in Sila è come, non lo so, andare a portare tumori in una terra che comunque è già piena di dolore. Peppe, tu? Adesso volevo mandare un pezzo dopo quello che ha detto Boni, perché è arrivato tanto in quello che ha detto nella nostra regione, come la Calabria. Dice la gente che se ne va e non torna più perché non c'è lavoro, perché c'è fame. L'hai detto questo, che la gente non torna in Camerun. Sì. Dico, è come qui in Calabria alla fine, perché noi saremmo costretti ad andarcene perché non c'è lavoro, perché siamo qui poveri. E quindi volevo... sì che è povera, di fronte all'Italia, sì, tranquillo, te lo assicuro. Volevo mandare un pezzo di Rino Gaetano, che è metà Africa e metà Europa, dedicato alla Calabria. Il sole, le dune e Africa, lontana ma legata all'America, i riti tribali di stregoni cardinali, di ministri triviali, yeah! Africa, terra nera, bruciata e Africa, le bombe, il sangue, una mamma che prega, un fermo di polizia, uno sparo, un ferito, e Africa, ma per te che lavori e non ridi, per chi come te gioca, questa terra è ancora Europa. Europa, le lotte di classe Europa, la difesa del posto Europa, per i tuoi interessi, per i figli e noi stessi, per chi c'è, chi è disperso Europa. Africa, il mare trasparente è Africa, ma nella storia c'è ancora una svastica, un ricordo preciso, qualcuno è stato ucciso nel cielo, nel mare dell'Africa. Vuoi ripetere quello che hai detto, magari? Allora, hai fatto la domanda sulla biomassa, non sono un grande, non sono ricercatore, però bisogna valutare le cose, però la sera mi piace tale quale, quindi se cambia un giorno a me anche dispiacerebbe. E vabbè, dicevi che la Calabria è povera e tutto questo, a me piace l'Italia, già vorrei dire che ho aspettato 3 anni per avere visto per l'Italia, quindi ci tenevo. All'ultimo momento avevo detto a mia sorella, se questo dossier non va a buon fine, mo lasciamo stare, appunto all'ultimo momento avete visto, perché comunque ce l'avevo già, ora ho già l'università dal 2004, quindi fino al 2006 ero già quasi laureato e poi dovevo fare altre cose. Qual è la realtà? La realtà della Calabria io non so cosa dire, però comunque dire povero io non ci credo, perché l'Italia appartiene alla Calabria e dell'Italia. E se la Calabria è povera, io non so. Bisogna chiedere all'Italia, io non so. Cioè, un paese dove c'è un clima del genere, cioè montagne, mare, una bellissima, proprio un bel panorama che non si vede. Io sono stato in Svizzera, in Francia, in Belgio ultimamente, quando tornavo dalla Francia, sono passato da Anvers, Bruxelles. Dove ho passato quasi 4-6 giorni, proprio viaggiando nel bus, quando tu parti, per esempio, prendiamo gli esempi semplici, partendo dall'università, dalle penzoline dell'università, per Paola con Pullman. Quella vegetazione che tu vedi magari passando su un ponte con un'altezza magari di più di 200 metri, è bello, non si vede da ovunque in Italia, cioè in Europa, insomma. Quindi sono cose che... La Calabria ha qualcosa di particolare, quindi se la Calabria è povera e che la Calabria appartiene all'Italia, io non so. Quello che voglio dire è che se io ti posso assicurare che un giorno, se io lavoro in Europa, fuori dalla Calabria, io le mie vacanze saranno in Calabria, perché per me la natura è bella qua, non c'è stress. Cioè, tu vedi le cose che ti piacciono, tu vedi una cosa un po' particolare, non c'è la popolazione non è tanta affollata. Magari quando tu arrivi all'università, che vedi che dunque ci sono pure tante gente qua, perché proprio c'è l'aria un po' pura qua, si respira proprio. E non diceva questo, la Calabria è ricca di risorse, di paesaggi, di mare, abbiamo una costa immensa, abbiamo le montagne a un quarto d'ora dalla montagna, sì, da questo punto di vista la Calabria è bellissima. Io ti parlavo, è povera per a livello di non c'è lavoro. Purtroppo siamo condizionati dalla criminalità organizzata, dobbiamo andare a cercare il voto di scambio, perché se non il politico ti viene a cercare il voto a casa, se non gli fai il favore lui non ti dà il posto di lavoro, poi ti mandano in un call center di merda a fare una vita da precario, ti licenziano quando vogliono. Su questo punto di vista la Calabria è povera, non di risorse, non parlavo di quello, lo so, penso che è uno dei posti più belli d'Italia. Come su questo posto hai ragione, perché anche i miei amici, c'è uno per esempio che ha lasciato la laurea ultimamente, che mi ha detto vado in Svizzera a lavorare un po' con gli amici, questi due esami li vengo a farli quando mi sentirò più bene, cioè non aveva più voglia di studiare. Comunque su questo punto almeno ci assomigliamo, cioè l'Africa su questo punto sicuramente assomiglia all'Africa, però il livello di vita comunque è proprio giorno e notte. La realtà è che bisogna vedere il sistema, magari se io potevo dare un consiglio, è una minorità che sta rovinando tutto questo sicuramente, e bisogna toccare proprio, perché comunque è una minorità comunque che lo fa, su questo sono sicuro. Quindi questa minorità, se c'è la possibilità magari di essere di fronte alla gente capace di cambiare le cose, allora la minorità capirà che non ha scelta. Secondo me tutti devono avere le stesse opportunità, tutti, comunque ogni società, ci sono delle cose universali, raga. Ci sono delle cose universali, tutti devono avere gli stessi diritti, le cose dovrebbero essere così. Purtroppo la fame e la sete portano sempre l'uomo via. Quindi su questo mi dispiace per l'Italia, però vorrei dire per la Calabria, ma che dobbiamo fare? Speriamo che un giorno l'Italia ci pensi. È lo stesso concetto che c'è in Africa. Se la popolazione si sveglia e inizia a dire di no ai propri governanti, ad andare contro questi pochi che comandano, bisogna fare la ribellione contro queste ingiustizie. Stanno facendo già, l'esempio è recente, la Tunisia. Ci sono tanti anni non si potevano dire in Tunisia che una donna poteva parlare per strada, che una donna poteva togliere con la, il vetro e buttare per terra. Quindi su questo, sai qual è la realtà? La realtà te la dirò in una frase: non si può come dire, mentire in italiano, come si dice, non si può mentire la storia, mai. Oggi stiamo parlando di questo, magari se Dio ci dà la vita, vediamo un po', se fra 40-50 anni possiamo parlare sullo stesso soggetto, sono sicuro che gli argomenti cambierebbero. Cioè non si può mentire la storia. Perché non si può mentire la storia? Perché la storia è la realtà. Cioè quello che vivono la minorità di oggi, la maggiorità di oggi, sarà il contrario di quello che vivrà con la minorità di domani. Io sono sicuro. Non si può mentire la realtà, ragazzi. Quindi io mi fido, anche in Africa non si può, perché in Camerun, per esempio, io sono sicuro che fra 5-6 anni le cose, questo sistema sta cambiando, perché già molti sono in prigione e ci sono tanti, tanti rancori. Dopo il sistema, anche il nostro presidente, io non so, non glielo dire che è lì in Camerun, comunque pure lui lo sa che appena finisce il potere va in prigione, perché dovrebbe rendere conto su tante tante cose. Diamo la parola a Cicci, vuole dire una cosa? No, che Boni ha toccato un testo, dicendo quella frase non si può mentire alla storia, ha toccato un testo comunque dolente di tutta la nazione, perché comunque non mentire alla storia in Italia vuol dire non riconoscersi in un'unità, non c'è mai stata un'unità. Tutti, già partendo prima della famigerata unità d'Italia, si è rimasto sempre con il territorio diviso, un territorio che comunque il sud è rimasto per i fatti suoi, cioè pensa che arrivavano dal nord per lavorare nel sud con operai del nord. Qui in Calabria abbiamo avuto i primi campi di concentramento dei soldati piemontese, dei Savoia, che comunque sono arrivati qua a sfruttare il territorio, a sfruttare le nostre donne, a sfruttare il tutto. Giustamente, come dicevi tu, appunto, non si può mentire alla storia, e lo stiamo vivendo questa cosa, perché come vedi l'hanno TAV, il problema della TAV l'hanno lasciata Eva Susani, non è un problema di tutta la nazione, e come il problema della spazzatura a Napoli, della spazzatura qui al sud, cioè uno che abita nel Veneto, uno che abita in Lombardia, non se ne frega proprio che al sud c'è la spazzatura. Io lo stesso ragionamento che fai tu, mi piace e lo condivido, non è un problema della Calabria, non è che sono i calabresi, è un problema che gli è stato imposto dal sistema, dalla storia, questo problema. Perché comunque è vergognoso vivere in un paese che è classificato nel G8, nei big del mondo, e avere delle strade che non hanno ancora l'asfalto, Boni. Viviamo realtà che vanno ben oltre, e tu vivi in un paese che è uno dei G8, uno dei big della terra. Abbiamo situazioni che c'è gente che ancora muore di fame. Cioè, ci sono paesi che vivono nella spazzatura mangiati dai topi. A me dispiace, no? Cioè io dico, ho detto nel mio ragionamento sull'Africa che gli africani stessi, i problemi degli africani è per gli africani. Loro quando lo capiranno sicuramente tutto cambierà. Per la Calabria quello che so è che non so bene la storia dell'Italia, non so bene come si fa qua, non mi sono mai interessato e sicuramente non mi interesserò mai. Perché sto bene e questo mi basta. Non è per egoismo, però posso dire il mio punto di vista. La realtà è che i calabresi sono sicuramente intellettuali, intelligenti, sanno quello che fanno. Se c'è una minorità magari che sta facendo soffrire una maggiorità, magari che non ha il potere perché è un problema di potenza, io non so, cioè la mentalità oppure deve cambiare le cose, no? Perché secondo me sono stato a Bologna, a Ferrara, a Milano, non vedo i miracoli. È vero che ci sono delle grandi città là, ci sono delle cose, però la Calabresa è la terra, la Calabresa, ho lavorato una ditta a Montalto che si chiama la Cosentina, che fanno buoni prodotti che mandano direttamente in Canada e che mi pagavano 1200 euro. Non si trova così lo stipendio qua, non so quante persone hanno 1200 euro insieme qua in Calabria. Quindi lavoro spesso là, talvolta 2-3 mesi, fanno la Cosentina, Montalto è là, lavoro spesso là da settembre a dicembre. Ho lavorato là già 2 anni, purtroppo quest'anno c'è stata la crisi e sono andato via verso fine, metà novembre. Cioè quando uno lavora per bene, per esempio come con questa gente con cui ho lavorato, cioè tu vedi l'energia che spende una persona per fare un buon prodotto, fino a talvolta avere delle comande che lui non ce la fa più quando non c'era la crisi. Quindi secondo me bisogna vedere la cosa in un altro modo. Io ci credo, ho detto che fra 40-50 anni parleremo di un altro discorso, anche magari di meno, magari fra 20, perché la maggior, comunque è la maggioranza che sta soffrendo, quindi questa minorità fino a quando? E tutti lo sappiamo, il problema dell'Africa è questo, cioè abbiamo, questo è proprio una cosa identica, cioè tu vedi la realtà, però tu fai quello che ti approfitta. E questo è il discorso. I calabresi non sono poveri, ma quale macchina io non ho, vedo, ho visto qua? Ci sono delle macchine che vedo passare non di meno di 100.000 euro, quindi ci sono soldi. Io qua all'università sto dicendo la piccola strada soltanto qua per andare a Cavacata, che non è nemmeno un nostro strada. Quindi è un problema, la parola mafia non mi piace perché non so cosa significa. Quello che posso dire è che non si mente, non si può mentire la storia. Io rivengo a questo, su questo punto per dire che anche in Africa, già adesso in Camerun, sai che in Camerun adesso tu arrivi là con i soldi per dare a uno, lui ti dice io non li prendo. Perché adesso c'è stato anche lo Stato l'ha fatto questa commissione, che sta mettendo tutti quelli che hanno rubato i soldi camerunesi in prigione. Però siccome il nostro presidente è lui che ha fatto la commissione e che lui essendo il capo, oppure lui lo sa, appena finisci, sono due condizioni, o preferisce rimanere il potere e morire là, alla grande, o allora comunque esce e poi pure lui passerà. Sicuramente sarà così, perché è il rancore, lui ha lavorato nel sistema con questa gente durante tanti anni, e mo lui non può scappare, oppure lui, quindi la storia non si può mentire, su questo il popolo ha sempre ragione, perché il popolo ha la forza del numero, la forza del sistema. Intanto volevo salutare Lazar e gli amici della Masonette che ci stanno ascoltando. Ti salutano tutta la comunità africana, ti saluta Boni della Masonette. Mandiamo un pezzo e dopo ritorniamo. Possiamo mandare un pezzo di, che ne so, degli Lichin Chains. We Died Young. Bang! Ok ragazzi, siamo in chiusura, passiamo ai saluti, doverosi farli i saluti, Boni, perché comunque ringraziamo chi ci ascolta. E volevo salutare Christian, Elisabeth che ci ascoltano da Perugia, Luigi, il nostro ascoltatore che scaricherà il podcast e lo ascolterà nella propria auto quando va in giro per lavoro, buon lavoro Gigi, Lorenzo Blues, i ragazzi del server, volevo salutare Antonio da Bologna, Tarle, il nostro indignato speciale da Roma, ti promettiamo che alla prossima risolveremo i problemi tecnici e potrei attingere alla trasmissione. Inoltre volevo salutare tutto il mondo, una speranza per il mondo, come diceva Boni, ce l'abbiamo tutti, io spero anche una Free Africa, un'Africa libera, l'Africa è davvero come diceva Sankara, l'Africa agli africani, come giusto che sia, e non più un luogo di sfruttamento, che si prenda coscienza nel mondo, illuminare le menti delle persone è possibile, però lo devono volere innanzitutto loro, non deve essere una cosa imposta. Inoltre salutiamo Jess Gian che ci ascolta da Pisa, Antonietta, Carmela, ok, io ho finito, Stefania, De Masi che ci ascolta da Pallagoria, Rossella, io ho finito con i miei saluti, buonanotte. No, oppure io devo salutare, no, però prima di salutare devo parlare ancora almeno 2 minuti perché ti devo dire che non ti dovresti fermare alla speranza. Avrei voluto che mi dici Boni, va bene, mi spero che un giorno io scoprirò almeno il Camerun, almeno per 2 giorni o una settimana, non so. La realtà è che sono contento di aver parlato con voi, però io so e rimango su questo punto che l'Africa è un continente abbandonato. Spero che, oppure voi no, avrete la fretta di dire agli altri magari perché no, perché no, perché non fare un giro lì un giorno, magari vedere quello che c'è o quello che non c'è. Sto parlando di un piccolo paese, magari le vacanze, scoprire l'Africa e vedere anche le belle cose. L'Africa non è un deserto, non è l'inferno, non c'è nessun continente al mondo. Il continente più bello al mondo è l'Africa, perché l'Africa ha delle risorse incredibili. Purtroppo, e noi, io sono fiero di dirlo, Dio ha amato di più questa piccola razza e gli ha dato un continente. E questa piccola razza, Dio ha fatto tutto per non metterli di fronte all'inverno. Quindi loro non avevano bisogno nemmeno di riscaldarsi per vivere. Però siamo arrivati là al giorno di oggi. Io spero che un giorno almeno la pace rimarrà, perché noi non chiediamo niente al di fuori della pace. Lo sfruttamento ci può stare, però se la pace c'è non si sente tanto, la fierta può rimanere pure. Quindi grazie per tutto e grazie a voi. Se un giorno volete lottare per l'Africa, non lottate per lo sfruttamento, ma lottate per la pace. Grazie. Ok, volevo in chiusura salutare Tarlo da Roma, scusarmi che non è potuto intervenire, perché abbiamo avuto un po' di problemi con i cavi, Tarlo, ce lo dirà la prossima volta questa notizia dello sgombero. E in più ripetiamo che Clandestino CID è per il mondo senza confini, senza frontiere, tutti uguali, nessuna differenza. E volevo dire una bella frase, dico, senza confini nessun clandestino e senza eserciti nessuna guerra. Vi lascio con un pezzo di... Chiudiamo con i Dire Straits, Ciccio. Ok, buonanotte. Sweet surrender. You remember we used to run high in the stairway. French kisses in the darkened doorway. Foghorn blowing out a wild cold. The policeman, he shines a light on my shoulder. Stuff.